Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ecco, abbiamo parlato di puntualità, 8:35 minuti, mi attendeva Alessandro Berselli che sarà in dialogo questa sera per la presentazione di Trudy, il lavoro di Massimo Carlotto in libreria, non in libreria, ma per quanto riguarda la rassegna Da Frida nel Parco con la curatela della libreria Ubic di Via Irnerio con la quale collaboriamo. Sembra una bella giornata, per cui facciamo gli addebiti scongiuri, però il percorso mi auguro sia consueto, come ho appena anticipato. Intanto do il buongiorno ad Alessandro, qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Infatti guarda, ti dico, sto effettivamente guardando il tempo, perché quando si organizzano delle presentazioni outdoor a fine settembre c'è sempre l'incognita meteo, e poi considerato insomma anche quello che abbiamo appena passato, quindi come dici tu, incrociamo le dita e facciamo i debiti scongiuri. Sì, perché oltretutto quello che è stato il contenuto del format precedente nel Mutu Groove ci teniamo, perché la professionalità è stato in ambito, abbiamo fatto parallelismo sportivo cestistico con quello che è questa caratteristica, e certamente vogliamo che i percorsi siano nel migliore dei modi. Allora, per quanto riguarda la pubblicazione, che tra l'altro ricordo è in Audi, Massimo Carlotto Trudy, Carlotto continuerà ad aver motivo per cui essere inquieti? Ti chiedo, Alessandro, continuerà ad inquietarci? Assolutamente sì, perché in Italia si scrivono molti libri crime, no? Poi dentro questa generalizzazione spesso ci mettiamo dentro tutto, no? Vari tipi di romanzo, quello investigativo, il noir, il giallo storico, eccetera. Insomma, poi le classifiche, grazie a Dio, confortano, no? Nel senso che c'è proprio un'attenzione quasi maniacale da parte delle tribù che seguono la letteratura di genere verso il noir, la letteratura nera. Però facendo un'ulteriore generalizzazione, passami forse un pochino bipolare, ci sono scrittori che esprimono il loro modo di essere neri, creando una sorta di comfort zone, no? Dove i lettori si sentono rassicurati. Non è il caso invece di Carlotto, che è uno scrittore invece che diverge, sovverte, inventa, sperimenta, ristruttura, ed è quello che fa anche con questo Trudy, che non lo dico per piaggeria, chiaramente, essendo il libro che presentiamo questa sera, ma credo davvero che sia uno dei libri più importanti della sua bibliografia. Che tra l'altro è assolutamente estesa, come ben conosciamo, un percorso riconoscibile ma nello stesso tempo con motivo ulteriore di originalità, possiamo dire, per tagliare col macete un pochettino questo inizio di conversazione, Alessandro. Ma guarda, hai fatto la definizione, mi hai praticamente anticipato la risposta che ti avrei dato, perché effettivamente Carlotto è così. Pessimo redattore, uno che si comporta così. In realtà no, grandi intuizioni invece, in realtà, perché non avendo concordato nulla, mi hai bruciato una risposta, ma hai semplicemente dato motivo poi di articolare quello che era la tua suggestione, magari con un'analisi di quello che è effettivamente Carlotto. E quello che fanno anche i grandi maestri, e tu hai detto benissimo, cioè all'interno comunque della destrutturazione, della sperimentazione, del fatto comunque di non crearsi delle zone di tranquillità nelle quali il lettore può poi ritrovarsi, comunque sempre una cifra riconoscibilissima, quindi quello che è la tua metrica, il tuo modo di raccontare le storie. Questo secondo me è fondamentale per uno scrittore, perché permette la riconoscibilità senza però poi adagiarsi su quelli che possono essere degli allori. Ora fermami se svegliamo troppo, ovviamente, perché entriamo anche un po' nella narrazione. Chi è Trudy? Beh, guarda, allora, questo è veramente un romanzo. Io di solito sono un fautore dello spoiler, cioè nel senso che penso che comunque bisogna sapere anche in golosi. Sì, perché poi delle volte mi è capitato durante una presentazione, stavo presentando un mio libro e ho detto a un certo punto, raccontando la trama, che c'era un omicidio, e qualcuno mi ha detto no, però così spoiler, e dico guarda, essendo un crime è molto probabile che a un certo punto succeda qualcosa, no? Però ecco, la trama di Trudy è veramente talmente complicata e talmente piena di bivi che anticipare qualcosa diventa davvero difficile. Allora, quello che possiamo dire è che sicuramente c'è un caso crime, quindi quello che è proprio chiaro, la condizione sine qua non perché un romanzo di genere possa nascere, però in realtà quello a cui Massimo sembra molto interessato in questo romanzo non è tanto alla parte crime, che comunque c'è perché è quella che appaga il lettore, ma anche tutta una serie di dimensioni e di rischi che poi vanno a toccare il mondo politico, la società. Quindi, come spesso fa Massimo nei suoi libri, non limitarsi semplicemente a regalare un plot nero, ma divagare sul tema, quindi toccando anche appunto argomenti sociali, perché poi fondamentalmente quello che interessa a Carlotto è l'analisi della condizione umana. Questa è una cosa che lui ha sempre fatto nei suoi romanzi. Trudy è una sorta di pseudonimo, il richiamo alla fidanzata storica di Gamba di Legno, per chi conosce l'universo disneyano, è chiaramente quasi un gioco divertito e divertente, che però poi all'interno del libro viene spiegato. È per quello che non posso rispondere completamente alla tua domanda, perché fa parte delle cose che vengono svelate nella narrazione. Sai che anche tu hai bruciato una cosina, ma adesso io con la mia fantasia riuscirò a portare un altro quiz, perché il quiz per avere questa sera in presentazione, io regalo libri nel format Breakfast Club, nel Voltiamo Pagina, nei magazine, nel Last Minute presentazione letteraria, io regalo libri. E la domanda era: qual è la fidanzata o compagna del famoso famigerato Gamba di Legno, nemico di Topolino? E a questo punto mi tocca inventare un nuovo quiz, ma lo farò con piacere, perché sono contento di tutto ciò. Però, quindi sfida accettata, insomma. Però ti chiedo la disponibilità di restare in diretta ancora un paio di minuti. Ce la fai? Certo, più che volentieri. Dopo lo stacco musicale ritorniamo in diretta con Alessandro Berselli. Questa sera, ore 19, libreria Ubica, la curatela di presentazione del lavoro di Massimo Carlotto Trudy, dalla rassegna da Frida nel Parco. Ricordo che in Parco della Montagnola e ovviamente in Via Ernerio a Bologna. A tra poco! We'll ride them away. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. Allora, il quiz è questo. Per quanto riguarda la presentazione di questa sera che stiamo anticipando qua sotto la voce di John DeLeo e questa interpretazione per la bellissima Heroes di David Bowie, allora il quiz è questo. Trudy è anche una nota casa di produzione molto particolare, anche se molto diffusa, di alcuni oggetti per non solo ragazzi, non solo bambine o bambini. Quali sono questi oggetti? Cosa sono i Trudy? A tra poco, per quanto riguarda la risposta che arriverà al 333-180-9494. Ci sei, Alessandro? Allora, mi stavo deliziando sia con il quiz che naturalmente con la magistrale interpretazione di Heroes di De Leo, che è veramente da pelle d'oca. Io non sono un fan delle cover, però devo dire che questa è veramente da paura. Questa è una delle cover più belle, sai che è stata coverizzata più volte questa canzone? Questa secondo me è una delle cover più belle al sassofono tenore. tenore Valentino Bianchi, Quinto Rigo dal disco loro primo, Rospo. Rospo, me lo ricordo bene, sì sì certo, assolutamente, sì sì, no guarda ti dico, la mia casa è piena di libri ma è molto più piena di musica. Io tra l'altro collaboro anche con Rockerilla per quanto riguarda critica musicale eccetera, quindi insomma è il mio pane. Bene, abbiamo un altro motivo per cui condividere le passioni e oltre, secondo me. Per quanto riguarda la narrazione, abbiamo già dato qualche anticipazione a questo punto, visto la tua disponibilità, parliamo un po' di Alessandro Berselli. In cosa sei impegnato? Svegliamo un po' anche dei tuoi lavori. Allora, in tante cose, come al solito, perché comunque a parte la mia attività di scrittore, il mio libro è uscito, tanto è uscito quasi un anno fa, perché è uscito il 10 ottobre del 2023, ho appena finito il giro promozionale, che per me è sempre molto lungo. Io sono uno scrittore bradipo e quindi tendo a scrivere pochissimo, perché poi mi piace molto tutta la parte di promozione, cioè andare in giro, incontrare i lettori, fare comunque eventi che siano in relazione al libro. Quindi insomma il mio ultimo libro uscito si chiama Gli Eversivi, è uscito per la collana di Mondadori Nero Rizzoli, è già un anno fa, e devo dire che riconosco molte cose di Carlotto per quanto riguarda quelli che sono i miei modelli a cui ambirano. Bisogna sempre tenere modelli alti, no, quando vuoi ambire qualcuno, proprio perché mi piace il giallo non tradizionale, quindi certo. Il giallo dove appunto entrano altri elementi, soprattutto una cosa che piace molto a Carlotto e piace moltissimo anche a me è la caratterizzazione dei personaggi. Quello proprio secondo me è fondamentale, perché e questo l'insegna il successo della serialità: i lettori si affezionano molto di più ai personaggi che alle storie, e quindi costruire dei personaggi, tu non ti immedesimi nel personaggio, la storia non funziona, non c'è niente da fare. Questo è proprio l'ABC del manuale di scrittura creativa, quindi il mio lavoro insomma va in questa direzione e mi piace davvero fare dialogare il noir con altri generi. Poi c'è tutto il resto, mi impegno con il dizionario del cinema Morandini per quanto riguarda il cinema, la musica appunto con Rockerilla come dicevo prima, insomma non mi annoio diciamo, ma va bene così, le vite bulimiche fanno parte un po' della mia dimensione esistenziale, quindi continuiamo a perseguire questo ideale di vita con giornate fatte naturalmente di 36-37 ore, perché non può essere altrimenti. E a me piace dialogare con te, a patto che non mi rubi il posto come redattore per la cultura. Promesso, promesso. Fujiko, okay. Sto facendo giurì in giuretta in questo momento. Parola di Boy Scout. Parola di Boy Scout e di giovane marmotta anche, guarda, così Avvaliamo ancora di più questa promessa. Questa esatto. Sera alle ore 19 in dialogo con Massimo Carlotto ci sarà Alessandro Berselli. Ricordo, da Frida nel Parco, Parco della Montagnola in Virnerio a Bologna, la curatela è di Ubic, vi aspettiamo, ribadisco, alle ore 19. Grazie Alessandro per questo dialogo e poi magari grazie ci troviamo questa sera e ti auguro buona giornata. Grazie sarà un ancora. Piacere caro, buona grazie giornata a tutti a voi e anche agli ascoltatori naturalmente. Ciao. Ciao, ciao. Andrea, Serena, siete ancora all'ascolto? Immagino di sì, perché avete vinto entrambi il libro di Massimo Carlotto Trudi, a patto che questa sera alle ore 19 ci siete in libreria, scusate, da Frida nel Parco, accidenti a questi lapsus per quanto riguarda Ubic, siccome collaboriamo con il Voltiamo Pagina, spesso questo refuso mi può capitare. Per la rassegna da Frida nel Parco ci siete, chi di voi due sarà presente? Se siete tutti e due, a spese mie, vi regalo due libri. Però, insomma, so che magari non c'è la possibilità di essere presente. Chi prima arriva o chi sarà presente meglio legge. Vedo che Serena sta scrivendo. Accidenti, Serena questa sera non può. Staremo a vedere, magari insomma avremo modo di dare premio di consolazione o quant'altro. Comunque grazie per aver giocato con I pupazzi della Trudi, che è il libro di Massimo Carlotto, questa sera è protagonista nel nostro Last Minute e nella serata da Frida nel Parco. voltiamo pagina e ancora la possibilità di arricchire la vostra biblioteca sarà anticipato dall'Incipit e poi a breve la linea va all'Edipeo Enciclopedico, che a proposito di linguaggi e narrazione ci parla di come tradurre l'abbaiare dei cani. Grazie per l'attenzione, con un caloroso abbraccio mi congedo a voi, vi do appuntamento a domani alle ore 7 per la prima colazione in diretta con la magia del mercoledì letterario di Radio Città Fujiko. E dal vostro William Piana una buona giornata, un buon martedì, a quanto pare sembra che, vabbè, non diciamo nulla, se non che vi aspetto domani puntuali alle ore 7 con il Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao a tutti!